Senta, ma lei hanno parlato di vendetta politica nei confronti dei magistrati, perché c'è già una legge, la legge Vassalli, che regolamenta punisce le eventuali colpe dei magistrati. Sì, il problema è il meccanismo con la quale la legge Vassalli regola la responsabilità dei magistrati, un meccanismo inadeguato che la stessa Corte di Giustizia Europea ha riconosciuto tale. Perché ricordo che non è un atto punitivo nei confronti dei magistrati, ma è un adempimento rispetto anche a una volontà dei cittadini che si sono espressi quasi 20 anni fa con un referendum, perché questi tutti tendono a dimenticarlo, sì, certo, magari volutamente. Ecco, ricordo che quasi il 90% dei cittadini italiani all'epoca si espresse così. Ma lei cosa vorrebbe? Cioè, un magistrato che sbaglia cosa dovrebbe fare? Pagare? Si può fare causa allo Stato e dunque al magistrato, e lui dovrebbe pagare con lo stipendio? Certamente, come succede per tutti gli altri dipendenti dello Stato, o anche non dello Stato, per chi compie errori. Ed c'è un principio, perlomeno io nasco e continuo a mantenere saldo quel famoso vecchio ma sempre valido principio di separazione dei poteri, dei tre poteri dello Stato. Comunque chi esercita uno di questi tre poteri deve essere chiamato a rispondere se fa degli errori. Ora, per il legislatore, quindi per i parlamentari, che tanto bistrattati, comunque siamo chiamati anche molto spesso a rispondere dei nostri errori. Per chi governa, idem, e non si capisce perché non debba essere chiamato a rispondere chi esercita il potere giudiziario. Con i dovuti modi, con le dovute cautele, con i dovuti distinguo, ci mancherebbe. I magistrati infatti parlano di vendetta, no? L'ANM l'ha sentita anche lei, il sindacato, faremo uno sciopero totale. Se l'Associazione Nazionale Magistrati pensa di intimorire il Parlamento, intimorendo me, come è successo con le dichiarazioni di Cascini, hanno sbagliato totalmente mira, e soprattutto mostrano di avere un concetto della democrazia molto molto labile.